innanzitutto serve a ripartire con un processo anche dal basso, e per questo siamo ospitati da vari circoli arci della regione Emilia-Romagna per riaprire un dibattito sulla questione delle droghe e sulla riforma delle politiche, in una situazione in cui il governo nazionale ha già dato la sua impronta evidentemente proibizionista e assolutamente ideologica, sia con i fatti, con i decreti che ha approvato a partire dal decreto del Gentileve per passare poi al decreto Caivano, che con la propaganda, basti pensare allo spot sulla cannabis lanciato dal Dipartimento Antidroga, e lo facciamo attraverso la presentazione di un libro che è dalla parte della ragione, che è la raccolta di scritti di Peter Cohen, che è un sociologo olandese, uno fra i più originali e importanti studiosi sul tema delle droghe, che raccoglie tutti gli scritti di Peter su Fuori Luogo, cioè quello che era l'inserto mensile del Manifesto. A proposito appunto dell'opera di Cohen, al centro c'è un cambio di paradigma radicale rispetto alle politiche attuali. In cosa consiste questo approccio diverso? Significa eradicare quell'approccio che appunto figlio del proibizionismo, che vede nel nemico la sostanza, e questa costruzione del nemico poi si sposta molto facilmente su chi quella sostanza la usa, ovvero le persone che usano sostanze, come un modo per stigmatizzare e quindi emarginare coloro che fanno uso di sostanze ovviamente illegali, perché invece su altre sostanze come l'alcol, che pure sono al pari delle sostanze tabellate, delle sostanze che influiscono sulla psiche e sul fisico delle persone, questa impostazione ovviamente non c'è. Significa ripartire dall'uomo, per cui molto spesso cita un ritorno all'umanesimo, ovvero da trattare le persone che usano droghe non come persone possedute dalla sostanza, ma come persone che nella stragrande parte dei casi sanno gestire il loro rapporto con la sostanza. Significa limitare le coercizioni e le imposizioni anche di diritto penale, che purtroppo invece sulle droghe sono preponderanti, basti pensare alle leggi in vigore in Italia, e ad attivare una serie di approcci che permettono sia una prevenzione dei rischi che una riduzione dei danni, puntando sulla capacità delle persone di regolare i propri consumi, come del resto succede appunto per l'alcol, una sostanza che è ben presente nella nostra società, ma che dal punto di vista del controllo sociale è assolutamente naturale e diffusa. Quindi le politiche non sarebbero più indirizzate alla repressione, però a, come dire, invece a una strategia di sostegno all'uso controllato. Esatto, si parla di autoregolazione, cioè in qualche modo aiutare le persone a gestire i propri consumi, e laddove questi consumi diventano problematici, come spesso succede in particolare per le sostanze più additive, come ad esempio l'eroina, aiutarle a ridurre i danni e possibilmente a limitare i danni che la sostanza può provocare sul corpo, evitando tutti invece i danni che politiche repressive, politiche penali possono portare in più rispetto ai danni della sostanza stessa. E nella pratica e nell'esperienza di questi ormai 60 anni dal varo delle convenzioni internazionali sulle droghe, probabilmente i danni del proibizionismo sono maggiori rispetto ai danni delle sostanze stesse.